Non siamo mica nati ricchi noi, ci alziamo presto la mattina e poi siamo distratti un po' e stretti nei metro. E quando torni a casa tardi tu dici sempre che non regge più, che non vuoi più parlare. Convivenza che ci ha dato, sì, la nostra storia è consumata qui, tra sigarette andate, le bottiglie vuote, le cose travassate, e tua madre che chiama ogni tanto, state bene, sì, stiamo bene, ma sono stanco, sai, vorrei ci fosse un giorno. Giorno senza fine, uno di quelli in cui ti scordi che domani ti devi alzare presto, devi lavorare. E ci fosse un giorno che tu non fossi nervosa, senza litigare, per prenderti per mano e andarcene un po' al mare. Giorno senza fine, apriamo gli occhi e poi non è così, ma a scuola che ne sanno, e sono già due volte che ci manca un anno. Qualche sera ci guardiamo un film, poi facciamo l'amore, i fatti della vita, per superarli bene, si deve stare insieme. Sveglia che suona le sei, i sogni poi non li finisci mai, ma tu sei stanca. Vorrei ci fosse un giorno senza fine, uno di quelli in cui ti scordi che domani ti devi alzare presto e devi lavorare. Vorrei ci fosse un giorno che tu non fossi nervosa, e senza litigare, riprenderti per mano e andarcene un po' al mare. Un giorno senza fine, per bere e per fumare, e poi tornare qui, riprendere coscienza, ma senza stare male. Stare male, un giorno senza fine.